Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Robert Jordan vedeva arrivare sempre nuovi aeroplani nell'alto cielo azzurro senza nuvole e osservava la faccia di Augustine voltata all'insù. Poi guardò in giù, verso il ponte fracassato e il tratto di strada ancora libero. Tossì e sputò e di nuovo sentì dietro la svolta il martellio della mitragliatrice pesante. Sembrava che non si fosse spostata. «E questo cos'è?» disse Augustine. «Che boiata è questa?» «È cominciato fin da prima che facessi saltare il ponte», fece Robert Jordan. Guardava il ponte, ora, e attraverso lo squarcio vedeva scorrere il torrente. La parte centrale del ponte pendeva come un grembiule d'acciaio ripiegato. In quel momento Augustine afferrò il suo fucile e lo puntò. Robert Jordan guardò attraverso la gola e vide Pablo svoltare di corsa la curva della strada. Lo videro fermarsi davanti alla nuda parete di roccia, dietro alla quale spariva la strada, appoggiarsi alla roccia e voltarsi e sparare verso l'alto. Robert Jordan vedeva Pablo, basso, tarchiato e grosso, a testa nuda, appoggiato alla parete, sparare il corto fucile automatico da cavalleria e vedeva volare i bossoli di rame scintillando al sole. E poi videro Pablo accovacciarsi e sparare un'altra salva. Poi, senza guardarsi indietro, egli corse verso il ponte, tozzo, veloce, con le sue gambe arcuate, la testa abbassata sul petto. Robert Jordan aveva spinto da una parte Augustine e si era messo in spalla il calcio del grosso fucile automatico e mirava alla svolta della strada. Il piccolo mitra era a portata della sua mano sinistra. Non era abbastanza preciso a una distanza simile. Mentre Pablo correva verso di loro, Robert Jordan guardò verso la svolta della strada, ma non vide venire nessuno. Pablo, giunto al ponte, si guardò una volta indietro, guardò il ponte, poi si voltò a sinistra e si buttò nella gola. Robert Jordan fissava la svolta della strada. In quel momento vide il muso, piatto, basso, quadrato, e la torretta piatta, verde, bruna e grigia, da cui usciva la mitragliatrice, svoltare la curva sotto il sole limpido. Le sparò contro e udì rimbalzare i colpi sull'acciaio. La piccola tank, leggera, sparì sussultando dietro le pareti di roccia. La tank cominciò a sparare sulla strada. Le palle rimbalzavano, fischiando, si affondavano, sibilando e stridendo nell'intelaiatura di ferro del ponte. Era la stessa mitragliatrice che avevano udito prima. Proprio allora Augustine vide Pablo emergere sull'orlo della gola, tirandosi su con le ginocchia e con le mani, la faccia ispida, gocciolante di sudore. «Ecco quel figlio di puttana», disse. «Chi?» «Pablo». Robert Jordan guardò, vide Pablo e cominciò a sparare contro la parte mimetizzata della torretta dove, come sapeva, c'era lo spacco sopra la mitragliatrice. La piccola tank indietreggiò stridendo e sparì. Robert Jordan sollevò il fucile automatico, ripiegò il treppiede e si buttò sulle spalle il fucile con la canna ancora rovente. «Augustine, porta il sacco dei caricatori e la mia macchina piccola e corri!» Robert Jordan corse su per la collina attraverso i pini. Augustine gli stava alle calcagne e Pablo gli correva dietro. «Pilar!» gridò Jordan giù per la collina. «Sbrigati, mujer!» Tutti e tre salivano più presto che potevano il versante ripido. Ora non potevano più correre perché la salita era troppo brusca e Pablo, che era carico solo della leggera mitragliatrice di cavalleria, aveva raggiunto gli altri due. «E la tua gente?» disse Augustine a Pablo con la bocca secca. «Tutti morti», disse Pablo. Non poteva quasi più respirare. Augustine voltò la testa e lo guardò. «Abbiamo abbondanza di cavalli ora, inglese», aggiunse Pablo ansimando. «Bene», disse Robert Jordan. «Sporco assassino», pensava. Thank you. «Abbiamo una quantità di cavalli», disse Pablo, «perfino per i bagagli». Agustin si morse il labbro, guardò Robert Jordan e crollò la testa. Sotto di loro, invisibile attraverso gli alberi, udivano la Tang sparare di nuovo sulla strada e sul ponte. «Perché sparavi alla svolta?» chiese Agustin bruscamente. Pablo lo guardò. Cominciò a ridere. Poi ci ripensò e non disse niente. «Li hai sparati tutti?» chiese Agustin. «Avanti, perché non dici che li hai sparati?» «Zitto!» disse Pablo. «Oggi ho combattuto molto e bene. Chiedilo all'inglese». «E ora facci uscire da questa giornata», fece Robert Jordan. «Non dovevi fare un piano?» «Ho un buon piano», disse Pablo. «Con un po' di fortuna ce la caveremo bene». «Raccontami quello che è successo giù», disse Robert Jordan a Pablo. «Cose di ogni genere», disse Pablo. Respirava sempre come se il petto gli si lacerasse, ma ora poteva parlare. La sua faccia e la testa erano inondati di sudore, le spalle e il petto ne erano inzuppati. Gettò a Robert Jordan un'occhiata prudente per assicurarsi che fosse realmente ben disposto verso di lui. Poi rise. «Cose di ogni genere», ripeté. «Prima abbiamo preso il posto, poi è arrivato un motociclista, poi un altro, poi un'ambulanza, poi un camion, poi la tank, un minuto prima che tu facessi saltare il ponte. E allora?» «La Tang non poteva raggiungerci, ma ci impediva di andarcene perché copriva la strada. Appena se n'è andata sono venuto». «E la tua gente?» intervenne Agustin, che non voleva calmarsi. «Zitto!» Pablo lo guardò fisso, e la sua faccia era la faccia di un uomo che aveva combattuto valorosamente. «Non apparteneva alla nostra banda!» Ora vedevano i cavalli legati agli alberi, con il sole che pioveva loro addosso attraverso i rami dei pini, e quelli scuotevano le criniere e calciavano per scacciare le mosche, e Robert Jordan vide Maria, e un istante dopo la stringeva forte fra le braccia, il fucile automatico premuto sul fianco, la canna appoggiata alle costole, e Maria diceva: «Tu, Roberto, oh, tu!» «Sì, coniglietto, mio caro coniglietto, ora si va!» «Sei veramente qui?» disse Maria. «Sì, davvero, davvero!» Robert Jordan era sul grande cavallo grigio che aveva visto per la prima volta nella neve la mattina precedente e sentiva di avere fra le gambe e sotto le mani un cavallo di prim'ordine. Seduto in sella, riempì l'unico caricatore che aveva sparato, stringendo le redini sotto un braccio e guardando Pilar arrampicarsi fino a una strana specie di sedile formato da un fagotto legato alla sella del cavallo fulvo. «Per amor di Dio, butta via quella roba!» disse Primitivo. «Cadrai, e il cavallo non può portare tutto quel peso!» «Zitto!» disse Pilar. «Come faremo a campare senza questa roba?» «Puoi cavalcare in quel modo, mujer?» le chiese Pablo dalla sella della Guardia Civile sul grande baio. «Come tutti i lattivendoli!» disse Pilar. «Che strada hai scelto, vecchio?» «Diritto, giù per il monte, poi attraverso la strada, poi su per l'altro versante e nel bosco dove il valico si restringe. Attraverso la strada!» Accanto a lui Agustin caracollava battendo con le sue scarpe di tela dalle morbide suole sulla dura pancia insensibile di uno dei cavalli che Pablo aveva requisiti nella notte. «Sì, ombre, non c'è altra via!» disse Pablo, tendendo ad Agustin una delle redini di corda. Le altre le avevano Primitivo e lo Zingaro. «Puoi metterti per ultimo, se vuoi, inglese», disse Pablo. «Traverseremo la strada abbastanza in alto perché quella macchina non possa raggiungerci, ma cavalcheremo divisi, più veloci che potremo, e ci riuniremo dove la valle comincia a restringersi». «Bene», disse Robert Jordan. Scesero attraverso il bosco verso il bordo della strada. Robert Jordan cavalcava dietro Maria. «Tu», disse a Maria, «mettiti seconda quando attraverseremo la strada. Chi è in testa non corre tanto pericolo come sembra. Il secondo è sicuro. Quelli che vengono dopo se la vedono sempre brutta. Ma tu?» «Io passerò in un momento. Non mi preoccupo. Si corre pericolo solo nei posti centrali». Thank you. Oltrepassa Pilar prima di attraversare la strada, disse Robert Jordan a Maria. Poi, guardando attraverso gli alberi che andavano diradandosi, vide in basso la strada scura, incatramata, e oltre la strada il versante verde della collina. «Maria!» disse. «Oltrepassa Pilar, prima di arrivare sulla strada, e sale più presto che puoi l'altro versante!» Lei si voltò a guardarlo, ma non disse niente. Lui evitava di guardarla. Le lanciò solo una rapida occhiata per accertarsi che aveva capito. «Comprendes?» le chiese. Maria annuì. «Su, avanti!» gli disse. Lei crollò la testa. «No, andrò nell'ordine che mi tocca!» In quel momento Pablo affondò ambedue gli speroni nel baio e, precipitandosi giù per l'ultimo pendio coperto di aghi di pino, attraversò la strada in un galoppo rumoroso, velocissimo, lanciando scintille dagli zoccoli del baio. Gli altri lo seguirono e Robert Jordan li vide attraversare la strada e avventarsi sul pendio verde mentre la mitragliatrice sparava dal ponte. Robert Jordan cavalcò per altri 30 metri, costeggiando la strada all'insù. Poi la scarpata divenne troppo ripida. Il cannone continuava a sparare con quel sibilo come di un razzo e quel boom secco che mandava in aria il terriccio. «Su, vieni, vigliaccone grigio di un fascista», disse Robert Jordan al cavallo, spingendolo giù per il pendio in una scivolata a tuffo. Il ponte ora si presentava di profilo in tutta la sua lunghezza e al centro si vedeva il crollo e dietro, sulla strada, era la piccola tank e dietro la piccola tank una grossa tank con un cannone che sparò in quel momento con una fiamma gialla e brillante come uno specchio e il sibilo, quando l'aria si lacerò, sembrò quasi sfiorare il collo grigio che si allungava davanti a Robert Jordan ed egli voltò la testa mentre la terra zampillava sul versante della collina. Vedeva già gli altri guardarlo raccolti nell'orlo del bosco e disse: «Arre, cavallo! Avanti, cavallo!» E sentì il petto del suo grande cavallo gonfiarsi come l'erta si faceva ripida, e vide il collo grigio allungarsi e le grigie orecchie diritte davanti a lui, e allungò la mano e carezzò il collo grigio bagnato. Poi si voltò a guardare il ponte, e vide il vivo lampo partire dalla tank tozza, pesante, color fango sulla strada, e poi non udì alcun sibilo, ma solo una detonazione secca, dall'acre odore, come quando scoppia una caldaia, e si trovò sotto il cavallo grigio. E il cavallo grigio calciava, e lui cercava di togliersi di sotto il suo peso. Poteva muoversi benissimo, poteva muoversi verso destra, ma la gamba sinistra, mentre egli si muoveva verso destra, rimaneva perfettamente piatta sotto il cavallo. Era come se avesse una nuova articolazione. Non l'articolazione del fianco, ma un'altra, che si muoveva lateralmente come il cardine di una porta. Allora capì chiaramente ciò che gli era successo. E proprio in quel momento il cavallo grigio si sollevò sulle ginocchia e la gamba destra di Robert Jordan, che si era liberata con un calcio dalla staffa, proprio come doveva fare, scivolò libera sulla sella e venne giù accanto a lui. Ed egli tastò con le due mani il femore della gamba sinistra, inerte, sul terreno, e le sue mani palparono entrambe la punta aguzza dell'osso che urtava contro la pelle. Poi Primitivo e Agustin lo afferrarono sotto le ascelle e lo trascinarono fino in cima all'erta, e la nuova articolazione gli faceva oscillare la gamba ad ogni ineguaglianza del terreno. A un tratto una granata sibilò bassa sopra di loro e quelli lo lasciarono cadere, si buttarono a terra, ma furono coperti di terreno mentre il proiettile si allontanava fischiando, e si rialzarono, lo raccolsero di nuovo. E infine lo portarono al riparo della lunga radura fra gli alberi dove erano i cavalli, e Maria, Pilar e Pablo si chinarono su di lui. Maria era inginocchiata accanto a lui e diceva: «Roberto, che cos'hai?» «Ho la gamba sinistra rotta, guapa», disse sudando abbondantemente. «Lasciateci parlare», disse a Pilare a Maria. «Devo parlare con Pablo». «Ti fa molto male?» chiese Pablo, piegandosi vicino a Robert Jordan. «No, credo che il nervo si sia spappolato. Senti, andate avanti. Io sono fregato, non vedi? Voglio dire due parole alla ragazza. Quando dirò di portarla via, portala via. Lei vorrà rimanere. Le parlerò solo un momento». «Non abbiamo molto tempo, claro?» disse Pablo. «Certo. Tagliami la gamba del calzone, per favore», egli disse a Pilar. Maria era accovacciata accanto a lui e non parlava. Aveva il sole nei capelli e la sua faccia era contratta come quella di un bambino quando sta per piangere, ma non piangeva. Pilar prese il coltello e tagliò la gamba del calzone sotto la tasca sinistra. Robert Jordan allargò la stoffa con le due mani e si guardò la coscia. 25 centimetri sotto l'articolazione del fianco si vedeva un gonfiore violaceo come una piccola tenda a punta aguzza, e toccandola con le dita egli sentì sotto la pelle il femore rotto. La sua gamba distesa faceva uno strano angolo. Robert Jordan guardò Pilar e vide sulla sua faccia la stessa espressione che su quella di Maria. «Anda, va», disse a Pilar. Lei si allontanò a testa bassa senza dir niente e senza guardarsi indietro, e Robert Jordan vedeva che le tremavano le spalle. «Guapa», disse a Maria prendendole le due mani. «Senti, non andremo a Madrid». Allora lei si mise a piangere. «No, guapa, no», disse egli. «Ascoltami, non andremo a Madrid ora, ma io sarò sempre con te dovunque tu vada, capito?» Senza dir niente, lei gli premette la testa contro la guancia e lo abbracciò. «Stammi bene a sentire, coniglietto». Sapeva che c'era pochissimo tempo e sudava moltissimo, ma certe cose dovevano essere dette e capite. «Ora tu te ne andrai, coniglietto, ma io sarò sempre con te. Finché ci sarà uno di noi, ci saremo tutti e due, mi capisci? No, io rimango con te». Egli la guardò sudando abbondantemente, poi ricominciò a parlare sforzandosi di convincerla come non si era mai sforzato per nessun'altra cosa in vita sua. «Ora tu te ne andrai, per tutti e due. Non devi essere egoista, coniglietta. Devi fare il tuo dovere, ora». Essa crollò la testa. «Tu ora sei me», disse egli. «Veramente. Così vengo anch'io, te lo giuro». Essa non disse niente. «Ora tu hai capito?» disse egli. «Ora vedo che hai capito. Ora andrai. Ora te ne andrai. Ora hai detto che te ne andrai?» Maria non aveva detto niente. «Andremo a Madrid un'altra volta, coniglietto. Davvero. Ora alzati e va. E andremo tutti e due. Alzati. Mi capisci?» «No», disse Maria. Egli si attaccò al collo. Egli ora parlava sempre con calma e in tono ragionevole, ma con una grande autorità. «Alzati», disse. «Tu ora sei anche me. Tu sei tutto quello che rimarrà di me. Alzati». Lei si alzò lentamente, piangendo e a testa bassa. Poi di colpo si buttò di nuovo giù accanto a lui e poi si alzò di nuovo, lentamente, stancamente, quando egli le disse: «Guapa, alzati». Maria era in piedi adesso e Pilar la teneva per il braccio. «Vamonos», disse Pilar. «Ti occorre qualche cosa, Inglés?» Lo guardò e scosse la testa. «No», egli disse e continuò a parlare a Maria. «Non ti dico addio, guapa, perché non ci dividiamo. Spero che vi troverete bene nei Gredos. Ora va, sii buona, va. Disse parlando sempre con voce calma e ragionevole, mentre Pilar trascinava via la ragazza. «Non ti voltare, Maria. Metti dentro il piede. Sì, il piede dentro. Aiutala a salire», disse a Pilar. «Mettila bene in sella, tirati su ora». Pablo percosse il cavallo sulla groppa con una cavezza e sembrò che Maria dovesse scivolare giù dalla sella, ma Pilar e Pablo le cavalcavano molto vicino ai due lati e Pilar la sorreggeva e i tre cavalli si avviarono su per la salita. «Robert!» gridò Maria voltandosi. «Lasciami rimanere! Lasciami rimanere!» «Io sono con te!» gridò Robert Jordan. «Io sono ora con te! Siamo tutti e due lì! Va!» Poi i tre furono nascosti da una svolta ed egli rimase a fissare il vuoto, fradicio di sudore. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.